ha focalizzato tantissimi punti, tra cui non ha parlato chiaramente delle problematiche psichiatriche, perché ci saranno dopo, che sono molto importanti in questa sua relazione, ma abbiamo qui un grandissimo esperto che è il professor Fagioli, qui presente, che ringraziamo tutti quanti perché è qui con noi, che faremo intervenire, perché le problematiche psichiatriche sono molto importanti, soprattutto in questi casi, non solo nell'aborto tradizionale, ma anche nelle riduzioni selettive. Poi l'ultimo, sono pronte le diapositive, sì, della dottoressa Gatti, giusto? Sì. Che parlerà alle basi scientifiche di un limite 22-24 settimane per l'interruzione nel secondo trimestre. Prego. Il termine vitalità nell'accezione medica attuale deriva bene? Il termine vitalità nell'accezione medica attuale deriva da William Ballantyne, che nei primi del Novecento dette una definizione molto accurata del termine viability, che tradotto in italiano è vitalità. Il prematuro si considera viabile o vitale quando ha la capacità di sopravvivenza fuori dall'utero. Quindi, significato letterale vitalità, attuabilità dell'autosufficienza, ma in maniera più profonda, più che nascere vivi, abbraccia anche il concetto di ragionevole periodo di sopravvivenza e di vita piena di significato. I pediatri neonatologi sono concordi nel comprendere nel concetto di viability la capacità del neonato di reagire allo stimolo esterno. Abbraccia il concetto sia il limite biologico della sopravvivenza legata all'immaturità fetale che al criterio epidemiologico che scaturisce dall'analisi dei dati presenti in letteratura. Prendiamo in esame il limite biologico e quindi l'immaturità neurologica. Noi sappiamo che il sistema nervoso compare all'inizio della terza settimana come spessimento del foglietto ectodermico, la placca neurale. Questa poi, da questa prende origine poi il tubo neurale e compaiono lungo il tubo neurale delle cellule della cresta neurale che poi migrano a formare i gangli sensitivi delle radici dorsali dei nervi spinali. Le divisioni di base del cervello adulto iniziano a partire dalla sesta settimana di gestazione. Tutti i neuroni che popolano la corteccia originano dalla zona periventricolare attraverso processi di moltiplicazione, migrazione e di differenziazione cellulare. La migrazione avviene secondo ondate ritmiche a partire dall'ottava settimana di gestazione con un picco verso la 24esima settimana. La cute origina dallo stesso foglietto ectodermico da cui originano tutte le strutture del sistema nervoso. I recettori cutanei appaiono molto precocemente intorno all'ottava settimana, allungano i loro assoni verso gangli paraventricolari e da qui risalgono i cordoni midollari per raggiungere il talamo intorno alla 18esima-20esima settimana. I movimenti embrionali e fetali sono schemi motori automatici self-generated e prendono origine dal midollo spinale con controllo del tronco encefalico. Raggiungono la massima espressione intorno alla 15esima settimana di gestazione per poi ridursi. La fonte del movimento è endogena, mentre la risultante stimolazione tattile del liquido amniotico è classificata come esogena. Questi movimenti hanno la funzione di stimolare i recettori cutanei e si guidano la formazione delle connessioni dalla periferia verso i centri spinali in maniera geneticamente determinata. Le successive connessioni verso i centri superiori dipendono esclusivamente dalla stimolazione dei recettori cutanei. La carenza di liquido amniotico porta ad una riduzione dei movimenti fetali e della stimolazione dei recettori con gravi carenze strutturali cerebrali. Le risposte dei recettori allo stimolo sono nel feto di tipo on-off e non c'è discriminazione in termini di qualità dello stimolo per tutta la gravidanza. È ormai comunemente accettato che nel feto la maturazione cerebrale dipende da una regolazione genetica e da un ambiente intrauterino che fornisce una stimolazione ottimale per lo sviluppo. I meccanorecettori cutanei, infatti, sono a bassa soglia. Fuori dall'utero, in caso di nascita prematura, la maturazione genetica progredisce normalmente, mentre la stimolazione esogena non è ottimale, data la varietà e l'intensità degli input ambientali. A partire dalla 23-24esima settimana di gestazione, le connessioni talamiche raggiungono la zona subplate. Si tratta di una struttura ad alta densità sinaptica, destinata a scomparire rapidamente al raggiungimento dell'età termine, alla funzione di sviluppo ed organizzazione della corteccia e di guidare le connessioni talamo-corticali. È essenziale per la connessione fra i centri superiori e la periferia. La comparsa della supplette corrisponde alla possibilità di sopravvivenza del feto fuori dall'utero materno. Studi in cui veniva bloccata la formazione della supplette hanno mostrato che l'assenza di questa struttura era incompatibile con la sopravvivenza. Le prime connessioni talamo-corticale compaiono a 23-24 settimane, poi raggiungono la supplate, poi gli strati più profondi della corteccia per partire poi dalla 28esima settimana e raggiungere gli strati più superficiali, compreso la lamina 4. La comparsa della supplate coincide con la comparsa di un'attività elettrica endogena cerebrale registrabile. E qui la comunità neurobiologica fino a qualche tempo fa aveva perso completamente interessi per questi studi elettroencefalografici, in quanto davano soltanto delle notizie di tipo fenomenologico. Ora attualmente sono stati fatti degli esperimenti ex vivo e in vivo sugli animali e sugli embrioni e su anche biopsie prelevate per scopi terapeutici, e hanno dimostrato, sono state individuate le basi molecolari dell'elettroencefalogramma. Per cui si è stabilito che il segnale dei neuroni immaturi è completamente diverso dai segnali dei neuroni immaturi, e questo è dovuto alla diversità di funzione dei neurotrasmettitori. Quindi Vanatalo nel 2005-2006 ha sperimentato una nuova tecnica elettroencefalografica, dove è stato possibile registrare questa attività elettrica transitoria spontanea denominata SATS, cioè Slow Activity Transient. Le SAT sono la registrazione elettroencefalografica dei potenziali scaricati da neuroni della supplette e da neuroni corticali. Le SAT compaiono appunto a 23-24 settimane, quando cioè compare la supplette e vi è la possibilità di sopravvivenza autonoma del feto. Le SAT sono espressione dell'attività cerebrale matura, spontanea ed endogena, e si basano su una self-organizzazione. Esse compaiono prima nella corteccia visiva e somatosensoriale. Con il trascorrere delle settimane in utero, le SAT si propagano per tutto il cervello. Diversi studi hanno dimostrato che stimolazioni esterne sul feto in utero provocano una risposta di tipo endogeno, che si traduce in termini elettroencefalografici in una SAT. Nel feto non vi sono differenze quindi tra ciò che è endogeno e ciò che è evocato in termini di risposta elettrica, a confermare come gli stimoli non siano finalizzati alla trasmissione di informazioni, bensì alla strutturazione e all'organizzazione delle connessioni talamo, supplet corticali e cortico-corticali. Durante l'ultimo trimestre i recettori cutanei non sono ancora abbastanza maturi da consentire una discriminazione qualitativa dello stimolo. Questa risposta di tipo immaturo sembra essere cruciale per guidare l'organizzazione somatotopica del midollo spinale e del cervello. Questo è vero anche per gli organi di senso. In utero è possibile registrare un'attività spontanea delle cellule ganglionari retiniche, che ha la funzione di connettere la retina con il corpo genicolato, la corteccia, e di strutturare la topografia delle colonne corticali visive. Studi in utero hanno mostrato che se l'attività spontanea neuronale delle cellule ganglionari retiniche viene bloccata, non può avvenire la strutturazione delle colonne corticali. A 24 settimane la retina e le connessioni con la corteccia occipitale sono strutturalmente presenti. La maturazione e la strutturazione delle connessioni avviene e si mantiene grazie all'attività endogena. Per quanto riguarda il sistema somatosensoriale, la sua strutturazione necessita, oltre che dell'attività endogena, anche di stimoli esogeni che sono ottenuti dal contatto della cute con il liquido amniotico, conseguenza dei movimenti embriofetali generati da circuiti midollari. La reattività agli stimoli sensoriali è un aspetto fondamentale della vitalità del neonato, prematuro e a termine. Con la nascita avviene un rapido switch da un'attività sensoriale endogena ad una stimolo dipendente, legata ad una diversa funzione dei neurotrasmettitori. Il più importante fra questi è il GABA, che modifica la sua funzione sotto lo stimolo luminoso retinico al momento della nascita con un effetto a cascata. Questo switch determina notevoli cambiamenti nel tracciato elettroencefalografico. Nel prematuro, dalla 24esima settimana, con la nascita, pur mantenendosi un'attività di tipo SATS, che è utile per il completarsi della maturazione cerebrale, compare all'elettroencefalogramma un'attività oscillatoria stimolo dipendente. A 24 settimane la presenza di connessioni fra organi di senso e corteccia rende possibile una risposta unitaria di tutto l'organismo ad uno stimolo. Allora, parlerò dell'immaturità polmonare in maniera molto, molto veloce, anche perché noi abbiamo dei limiti che sono quelli delle 22-23 settimane per quanto riguarda il polmone. E noi riusciamo con il surfattant a superare questo limite, nel senso che riusciamo a far sopravvivere i bambini anche per molte ore a 22 settimane, ma poi quello che succede è che questi bambini non hanno la capacità di reagire all'ambiente esterno e quindi non li perdiamo per una scarsa ossigenazione, ma li perdiamo per una loro scarsa reattività. Prenderò in esame ora la parte epidemiologica. Negli ultimi abbiamo visto, cioè in una review del 2005, si vede che negli anni 60 sopravvivevano il 50% dei neonati nati alla 30esima-31esima settimana, mentre negli ultimi 10 anni sopravvive il 50% dei nati a 23-24 settimane. Ma la sopravvivenza migliorata non ha migliorato le sequele neurologiche. In un'altra review del 2001, noi vediamo in un Euronic Study, vediamo che conclude che la sopravvivenza sotto le 23esima settimana e sotto i 500 grammi di peso senza reliquati è inesistente. E un altro lavoro eseguito in Norvegia su 46 prematuri nati al di sotto delle 23esima settimana, nessuno è sopravvissuto alla terapia intensiva. L'Epicure Study, che è uno studio molto importante eseguito in Inghilterra e in Irlanda, su 241 prematuri nati al di sotto della 25esima settimana, mostra che su 138 neonati rianimati in sala parto con età gestazionale inferiore alla 23esima settimana, solo due bambini sono sopravvissuti e con gravi handicap. E qui la statistica. Quello che noi vediamo è che in questi bambini poi nel follow up a lungo termine vi sono gravi disabilità neurologiche di tipo cognitivo. I dati, un'altra review del 2008 di Seri conclude che i nati sotto le 23 settimane e con peso inferiore a 500 grammi sono troppo immaturi per sopravvivere con le moderne tecnologie e quindi è consigliabile usare le cure palliative. I nati sopra le 25 settimane e con peso maggiore di 600 grammi hanno invece una sopravvivenza del 70% e più del 50% dei casi sopravvivono senza severe disabilità. Uno studio importante di Fanaroff in America del 2007 mostra che ha intervistato i neonatologi americani e solo il 4% rianima sotto le 23 settimane e sotto i 500 grammi. Dice che c'è una zona grigia tra le 23 e le 24 settimane più 6 e fra un peso compreso fra 500 e 599 grammi. In questi pazienti infatti è difficile predire sopravvivenza e morbilità. In Francia, come tutti sappiamo, c'è una zona grigia tra la 24esima e la 25esima settimana, dove le cure rianimatorie vengono proseguite solo se non ci sono dei fattori di rischio importanti e dopo aver consultato i genitori. Si interviene sopra la 25esima settimana. Sotto la 24esima settimana vengono offerte solo cure palliative. In Italia l'attuale legislazione prevede che a 22 settimane più 6 vengono offerte cure palliative, a 23 più 6 quando sussistono condizioni di vitalità il neonatologo interviene con cure intensive, a 24 più 6 il trattamento intensivo è sempre indicato e questo ugualmente a 25 settimane. Grazie per l'attenzione.